Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci della nuova emigrazione. Apriamo oggi una puntata che ruoterà intorno a un tema per noi molto importante, quello del percorso professionale. Non ci stancheremo mai di ripeterlo: per rendere attrattiva una nazione occorrono politiche di sviluppo di carriera che incentivino i giovani sulla base delle capacità e del merito. Altri parametri più o meno opachi semplicemente deprimono e affossano un paese. Ce ne occuperemo tra poco insieme a un focus sull'emigrazione dei nostri professionisti in Germania. A breve tutti i dettagli. La frase della settimana è copyright del presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker: invecchiamo, abbiamo bisogno di nuovi talenti che arrivino da ogni parte del mondo. Così Juncker, che ha ricordato che i migranti possono essere una risorsa se ben gestita. Ma per attrarre i talenti internazionali serve, tra le altre cose, un'offerta formativa globalmente riconosciuta. E qui purtroppo abbiamo ancora qualche difficoltà. Secondo l'annuale classifica QS, i nostri atenei sono ancora indietro nel mondo, nonostante alcuni livelli di eccellenza. Siamo distanti dal vertice, col Politecnico di Milano primo tra le italiane al 187° posto, seguito da Bologna 204esima e la Sapienza 213esima. È vero che a livello di qualità dei nostri laureati teniamo botta, la Bocconi è 32esima, ma a livello globale la ricerca certifica un passo indietro rispetto al 2014. Nel mondo le eccellenze restano anglosassoni: MIT primo, poi Harvard, Cambridge e Stanford. Ma non è solo un problema di università. Come ci insegna la storia di oggi, sono anche le prospettive che il nostro mondo del lavoro offre a profili giovani e altamente qualificati, prospettive che non sempre seguono la strada del merito e della valorizzazione. Questo è il vero problema. È meglio confrontarsi con ambienti competitivi della fine premio. Luca Straniero, 36 anni, nomina omina, verrebbe da dire, trovandosi lui stesso nella condizione di espatriato, è un contract manager di stanza, anche se solo temporaneamente in Cina. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. Quasi la metà dei laureati italiani dichiara la propria disponibilità a trasferirsi all'estero per motivi di lavoro, una scelta che in particolar modo viene giudicata possibile per il 62% dei laureati in lingue e per il 57% degli ingegneri e architetti, mentre tra i gruppi più stanziali figurano psicologi e laureati nelle discipline dell'insegnamento. Negli ultimi anni si è assistito a una crescente disponibilità a spostarsi oltre confine, 15 punti percentuali in più rispetto al 2004. Lo rivela Alma Laurea, citata dal Sole 24 Ore Scuola. Ma cosa cercano i neolaureati dal mercato del lavoro? Tra i fattori ritenuti decisivi nella ricerca di impiego troviamo l'acquisizione di professionalità, la stabilità del posto di lavoro e la possibilità di carriera. Quali sono i paesi con la maggiore percentuale di lavoratori altamente qualificati? Secondo il World Economic Forum vince Lussemburgo col 60% davanti a Singapore e Svizzera. Decisamente rivelatore lo studio dell'Istituto Demografico di Vienna, ripreso dal Corriere della Sera. In Europa la proporzione degli stranieri laureati è spesso e volentieri allineata alla proporzione dei nativi laureati. Emblematico è il caso italiano, dove laureati stranieri e tricolori nelle varie regioni non arrivano al 20% del totale, mentre in Francia, Germania e Gran Bretagna si sfiora il 30%. Per la penisola il rischio di una guerra persa sul fronte della guerra per i talenti. A volte, va pure aggiunto, è anche una questione di reputazione. Il Country Rap Track 2015 della Reputation Institute colloca l'Italia al 14° posto, mentre nella top 3 figurano Canada, Norvegia e Svezia. Il World Economic Forum, da parte sua, assegna una pagella poco lusinghiera alla penisola in materia di disparità di reddito e inclusione. Andiamo male soprattutto in protezione sociale, competitività e istruzione. Siamo 28esimi per equità generazionale. Secondo il Country Focus ECFIN della Commissione europea, in Italia i laureati sono il 20% contro il 32% della media comunitaria. Il ritorno dell'investimento in educazione universitaria è basso. Le entrate di un dottore under 35 corrispondono al 122% di quelle di un diplomato, contro una media OCSE del 140%. Solo quando trova lavoro all'estero, il laureato italiano guadagna di più e fa carriera rapidamente. Aumentano le richieste di ingegneri specializzati e profili tecnici italiani da parte delle società elvetiche. E quanto emerge da uno studio Technical Hunters, che ha rilevato un incremento nei settori dell'elettromeccanica, chimica farmaceutica, plastica, metalli preziosi, macchine e strumenti di precisione, con offerte di stipendi più elevati anche del 20% rispetto a quelli italiani. Sempre secondo Technical Hunters, Sud America, Sudafrica, Medio ed Estremo Oriente offrono opportunità di lavoro per ingegneri italiani nel settore dell'energia da fonti rinnovabili, con stipendi che possono arrivare a 75.000 euro lordi l'anno. I profili più ricercati sono ingegnere di processo, project engineer e project manager. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta in Cina, una tra le tante tappe che hanno costellato e stanno costellando la vita professionale di Luca Straniero, la cui storia è paradigmatica di un certo sistema Italia, quello che i giovani a volte li allontana. Nome. Luca. Cognome. Straniero. Età. 36. Città di origine. Napoli. Studi. Ingegneria gestionale. Anno in cui hai lasciato l'Italia. 2009. Per andare dove? Kazakistan. Perché? Per crescere professionalmente. Quale lavoro svolgi attualmente? Contract manager. Dove? Yantai, Cina. Tornerai? Lo spero. Il percorso nel mondo del petrolio inizia dopo una corsa a ostacoli tra lavori a Napoli, Roma e Milano nei settori più disparati con contratti volatili. Così, Luca, ricordi gli albori del tuo percorso professionale in Italia, dal quale emergono chiaramente due termini, ostacoli e volatili. Quanto questo mix di sbarramenti e precarietà porta o obbliga i giovani con maggiore ambizione e talento a lasciare il paese? Molto, perché è meglio confrontarsi con ambienti competitivi della fine premium. Ambienti competitivi premianti, una bella definizione. Napoletano DOP di origine partenopea, come ami definirti, avvii un percorso di studi nella tua città con una laurea in ingegneria. Cosa ti porta su questa strada? Pensavo potessi darmi un rapido accesso e facile al mondo lavorativo. Ti sei mai pentito di aver studiato in Italia alla luce della tua successiva esperienza all'estero? Quale voto complessivo dai alla formazione ricevuta qui? L'università italiana, in particolare ingegneria, è uguale al mondo, secondo me. Direi un 28 pieno con margini di miglioramento, diciamo, per la parte pratica. 28 trentesimi non è male. Ora viene il bello, torniamo alla corsa a ostacoli che hai fatto per arrivare a una prima stabilità lavorativa in Italia. In estrema sintesi, ce la racconti? Non basta, ti chiedo, essere ingegneri per poter stare tranquilli? Direi di no. Nel mondo di oggi, ipercompetitivo, la laurea in ingegneria è giusto una base buona di partenza. Bisogna fare quanto prima possibile esperienze lavorative, secondo me. Nel 2006, la prima svolta con l'assunzione in una delle maggiori aziende di idrocarburi del paese, da Napoli a Milano, ancora neolaureato, arrivi ad avere il posto fisso, così desiderato e agoniato da molti. Ero proiettato a stare a Milano tutta la vita, ricordi? E c'è però anche un lato negativo, ardevo di voglia di conoscenza. Volevi, insomma, sperimentare, uscire dai confini nazionali. E qual è stata la reazione dei tuoi superiori di fronte a queste richieste? Al massimo potevo fare qualche breve trasferta, altrimenti avrei dovuto cambiare ufficio, cosa che mi veniva presentata come una sorta di concessione dai termini definiti temporalmente. Il tuo percorso si snoda comunque, al punto che guadagni la stima dei tuoi responsabili, cresci anche con una modalità sui generis, arrivi a ricoprire ruoli de facto dirigenziali anche senza titolo contrattuale. Di cosa ti occupavi? Ma assistevo tecnicamente ai legati dell'azienda, in contenziosi nati da contratti di fornitura, energia e manutenzione. In generale siamo un mondo un po' bizantino noi italiani nel mondo del lavoro. Credo che le aziende amino complicarsi la vita con una forte attitudine a red tape con i capi e con l'ufficio del personale. Sentendomi negato un futuro di sfida e crescita, presentai le dimissioni e, nonostante la proposta della categoria quadro, firmai un altro contratto. I tuoi capi hanno comunque provato a trattenerti, tu però avevi già preso la decisione. Allora, in Italia in generale, ti chiedo, ci sono percorsi strutturati di crescita o al confronto con l'estero viene un po' tutto lasciato al caso alla fine? Sia le PMI che le grandi aziende italiane investono sui giovani, devo dire, con corsi di formazione, impostano poi assessment per valutare le carriere, però è solo lo specchio di un'americanizzazione, secondo me, formale, manca la sostanza. Formalmente l'investimento c'è, ma poi nella pratica non si traduce così bene. Sì, poi non c'è coerenti con politiche di retention. Il contratto del tuo successivo lavoro era con una società impiantistica del nord Italia. Ottieni subito quello che vuoi, parti per il Kazakistan, dove fai un'esperienza importante. Per occuparti di cosa? Principalmente siamo partiti in quattro per avviare da zero una società di costruzioni con un partner locale. Principalmente mi occupavo di pianificazione dei lavori, controllo gestione, di organizzazione contrattualistica. Purtroppo, rientrato in Italia arricchito professionalmente, mi sono scontrato ancora una volta col duro mondo lavorativo locale, nepotismi, superlavoro con stipendio da impiegato, eccetera. Un quadro ribaltato, potremmo dire, rispetto all'esperienza precedente. Meglio la grande o la piccola media azienda, dunque, in Italia? Un bel dilemma, perché la medio piccola impresa offre un ampio spettro di conoscenze e esperienze immediate, mentre quella grande potrebbe aprire le future porte di un'azienda ancora più grande e forse migliore. Però c'è un problema forse di ambiente relazionale a volte, no? Che si scontra con un percorso di crescita strutturato. Sì. Dopo 5 anni venni travolto da vicende di bottega familiare e riorganizzazioni che hanno messo l'azienda in crisi, ricordi un po' con amarezza. E per te è il tempo di fare le valigie dall'Italia. Alla fine te ne vai portandoti dietro il meglio e il peggio del nostro mondo del lavoro. In cosa dobbiamo migliorare per non farci scappare i giovani più ambiziosi? Quali sono i nostri deficit strutturali in questo senso? Responsabilizzare le risorse giovani già dai primi mesi, affidando obiettivi anche non remunerati. manifestare stima e mantenendo una reazione diretta e informale. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. A quel punto la tua strada parla solo straniero, prima in Russia per un gruppo spagnolo, poi il passaggio a un gruppo francese per due progetti, il primo nelle Filippine, ora in Cina, sempre con la valigia in mano. Coi francesi ho avuto la dimostrazione di aver fatto bene a lasciare il tanto agognato posto fisso in Italia. Consideri ora soddisfatto. Di cosa ti occupi in Cina? Sono responsabile della gestione contrattuale, della corrispondenza commerciale e valutazione delle varianti allo scopo d'appalto. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Luca Straniero, 36enne contract manager in Cina. Per lui una carriera nel settore oil and gas e dell'impiantistica tra Italia ed estero. Nella penisola sperimenta il meglio, ma anche e soprattutto il peggio, del percorso di carriera all'interno sia delle grandi che delle medie aziende. Deluso da certe pratiche molto italiane nella gestione delle risorse umane, opta infine per l'estero, dove trova in pochi anni la piena realizzazione professionale. Andiamo allora all'ascolto. Giovani Talenti. Quali principali differenze hai potuto osservare nella gestione delle risorse umane tra Italia ed estero? Italia orizzontale. Non si percepisce alcun senso di superiorità che ho riscontrato anche nel nord Italia. Cioè le gerarchie ci sono ma non sono così pesanti. Sì, non c'è una sovrastruttura di cui si sente il peso appena uno entra nell'ufficio dell'HR. E anche a livello di responsabilità, nonostante tu sia under 40, il tuo livello di responsabilità è andato aumentando? Sì, nel giro di pochi anni sono arrivato a gestire contratti d'appalto da oltre un miliardo di euro. Un miliardo di euro. Complimenti. Sì, oltre. Qual è il tuo personale messaggio alle aziende italiane in un mondo sempre più globale e sempre più competitivo? I vecchi modelli di organizzazione funzionano ancora? No, già il project management applicato all'azienda risulta datato. La necessaria trasversalità delle competenze personali e la liquidità delle frontiere spingono verso il modello a network. Tu hai incontrato molti italiani nel tuo percorso all'estero e c'è stato anche un piccolo paradosso quando incontri un bergamasco che faceva la pizza in Kazakistan. Sì, un ristorante di imprenditori russi con un nome vagamente italiano, il quale mi disse che era lì perché non trovava lavoro a Bergamo. Il paradosso di un napoletano che mangia la pizza di un bergamasco. L'Italia unita da nord a sud, unita dall'emigrazione alla fine. Luca, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire? Un paese senza slancio e tanta inerzia che si sta autospegnendo, incapace di coltivare delle eccellenze, le sue eccellenze fin dalla scuola. Ci raggiunge ora in linea Sergio Polito, presidente del settore beni e servizi di Asso Mineraria. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, Polito, una storia un po' paradigmatica quella di Luca Straniero. In tutta sincerità, secondo lei il sistema Italia fatica o no a valorizzare i giovani migliori e di maggior talento anche nel vostro settore? Sì, indubbiamente mi ritrovo un po' in quello che ha rappresentato Luca, quindi esiste questa difficoltà della valorizzazione, della crescita, delle competenze dei giovani, indubbiamente questo è in generale. Per quanto riguarda i laureati in ingegneria come Luca, insomma, mi sembra che ci sia una maggiore attenzione riguardo a questa tipologia, diciamo così, di competenze sul mercato. Ascoltando la sua storia, non è tanto forse l'ingresso, ma poi è il percorso di carriera che si sviluppa, che latita, è questo che lui riscontra anche a livello poi di organizzazione interna, di gerarchie, eccetera, di potenzialità di poter andare all'estero e avere un percorso strutturato fuori. Qui cosa si sta facendo? Si sta facendo qualcosa? Ma tutte le aziende di fatto hanno percorsi di questo genere, insomma, più o meno strutturati. Poi come vengono applicati alle persone, ai singoli soggetti, indubbiamente ci possono essere delle situazioni che, ripeto, mi ritrovo in qualche modo in quelle che ha rappresentato Luca, però onestamente non mi sembra che lo si possa generalizzare in generale. Speriamo. In brevissimo, cos'è Asso Mineraria e quali aziende rappresenta? Noi rappresentiamo come settore servizi, rappresentiamo tutte le aziende che operano nel settore oil and gas, tra le quali immagino probabilmente Luca abbia avuto opportunità di collaborare forse con qualcuno di questi. Secondo lei, dal suo osservatorio, torniamo al punto della valorizzazione, crescita, percorsi professionali, c'è un problema di cultura aziendale delle risorse umane in Italia? Sì, indubbiamente. indubbiamente esiste questo problema qua, no? Che si sta cercando in qualche modo di eliminare o di superare. In questo contesto noi come Assomilitaria, seppur associazione, ma proprio perché rappresentiamo 140 aziende che operano nel settore oil and gas, ci siamo posti il quesito, il problema della formazione. E infatti, allora, lei è presidente di Assoil School, che è un centro didattico in Basilicata, fornite percorsi formativi per il cosiddetto indotto upstream. Quale consiglio, in tutta sincerità, tenendo conto dell'Italia che abbiamo di fronte oggi, lei darebbe a un giovane che volesse lavorare nel settore oil and gas? Restare qui o andare all'estero, fare esperienza, restare fuori? Certamente, voglio dire, il mercato italiano dell'oil and gas permette la possibilità di lavorare in Italia, ma poiché in Italia oggi le attività oil and gas sono ridotte al lumicino, certamente quello di avere l'opportunità di andare a lavorare all'estero, come è successo a Luca, almeno nella fase iniziale con una società italiana. Nella speranza che nel frattempo tutti quei problemi che ha sperimentato scompaiano in qualche modo e si possa dare quell'opportunità e quella valorizzazione che è necessaria. Questo sicuramente stiamo lavorando anche nei corsi di formazione per affrontare tematiche di questo genere. Ecco, nella pratica come fate? Ma nella pratica cerchiamo di fare corsi di formazione certamente specialistici non solo per gli ingegneri, ma chiaramente anche per i diplomati e per altre persone interessate ad incontrare questo mondo che è poco noto in Italia. E contemporaneamente facciamo anche dei corsi di livello un pochino più alti che guardano l'approccio culturale e quindi dei temi un pochino, diciamo così, più importanti, rivolte proprio agli imprenditori alcune volte. E il feedback? Ma il feedback è che noi, almeno per le aziende, diciamo, che sono più dinamiche, quindi mi riferisco alle medio piccole italiane, c'è una possibilità, c'è un understanding, e poi il fatto che siano più piccole offrono certamente maggiore possibilità di conoscenza, perché poi nelle grosse aziende qualche volta si corre il rischio di perdere, o di essere riconosciuti. Questo per quanto riguarda le aziende medio piccole. Però per quanto riguarda le aziende grandi, io vengo anch'io da una mia esperienza lavorativa da grosse aziende, onestamente ci sono molti giovani che trovano la loro strada. E così speriamo. Grazie a Sergio Polito di Asso Mineraria. E domanda diritto per Luca Straniero. Per chiudere, quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Di resistere, avere tanto coraggio e non fermarsi, anche nel caso di un failure to launch. Ed un lavoro che non sia quello che ci si aspettava. L'importante è imparare anche le lingue in loco, non studiarle in Italia. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un Senior Nuclear Safety Officer all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di Vienna, in Austria. Richiesta una laurea scientifica, scadenza per CV 23 ottobre, info su iaea.org. Un consulente legale per la European Broadcasting Union a Ginevra, in Svizzera, scadenza per i CV 30 ottobre, info su ebu.ch. E infine un funzionario scientifico alla INRA, Istituto Nazionale Francese per la Ricerca Scientifica, scadenza per i CV 20 ottobre, candidature a heather.mccann@paris.inra.fr. Siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi spostiamo il nostro baricentro in Germania, uno dei paesi più in voga tra i giovani italiani che emigrano. Un fenomeno che il giornalista Leopoldo Innocenti, già inviato di guerra e attualmente di stanza a Berlino, ha deciso di indagare, osservando quotidianamente l'onda di arrivi di connazionali. A questo Leopoldo ha dedicato un libro, Auf Wiedersehen Italia, di recente pubblicazione. Sentiamo cosa ci ha detto. Questo libro l'ho scritto per capire da che cosa sono fuggiti i nostri giovani e ho voluto seguirne i percorsi, le aspettative, i successi, forse posso anche aggiungere le delusioni, ma insomma questi ragazzi, 16 interviste, praticamente stanchi di tutte le dichiarazioni e le promesse che hanno avuto in Italia, hanno deciso di andare in Germania e io racconto le loro ansie e le loro aspettative. Cosa fanno a Berlino questi ragazzi? Diciamo intanto che non fuggono, sono dei soggiorni, diciamo, non forzati, sono scelte consapevoli, perché sono tutti ragazzi che hanno delle borse di studio, che hanno frequentato l'Erasmus e poi hanno deciso di rimanere a Berlino. Berlino va ricordato che è la città delle start-up, è la città dell'arte, dei progetti che, diciamo così, si possono concretizzare. Possiamo anche dire che Berlino è la città delle opportunità. Berlino non è una piazza facile in ogni caso, anche perché appunto dà delle opportunità, però è anche una città ormai molto battuta da questa, chiamiamola pure, nuova emigrazione. Allora, quali sono un po' anche i tuoi consigli a chi arriva? Diciamo che Berlino non deve essere una ubriaca travolgente. È molto importante ricordare a tutti quelli che avessero intenzione di andare in Germania che è determinante sapere di andare e di imparare la lingua. L'età media è sempre abbastanza bassa. L'età media è, diciamo, dai 21-22 anni fino ai 33-34 anni, quindi gente delusa qui in Italia che alla fine non ha trovato nulla, tenta la carta della Germania. Ci sono delle statistiche anche dell'Università Bocconi di Milano che dicono che alla fine del 2013 circa i ragazzi che sono andati in Germania sono aumentati di almeno un 40.000. Da quello che dicevi prima mi pare capire che ricerca e startup sono un po' i due magneti principali per chi dall'Italia viene a Berlino, è così oppure ci sono anche altri settori? Diciamo che se uno ha una laurea in ingegneria a Berlino può trovare subito il lavoro, quindi ci sono delle lauree particolari. Nel libro si parla anche di un ragazzo medico che con la laurea in medicina è riuscito subito a trovare posto perché non c'è la burocrazia che c'è in Italia, quindi bisogna anche molto vedere. Chiaro, se uno vuole andare a fare l'avvocato diventa molto più difficile per entrare nel concreto, e in questo libro presenta molti casi di ragazzi che hanno accettato una sfida, e quindi il libro, diciamo, che non vuol dare risposte ma vuole stimolare delle domande. Per maggiori informazioni, Auf Wiedersehen Italia, In fuga verso il futuro di Leopoldo Innocenti, Armando Editore. Un motivo per restare o tornare. Torniamo oggi sulla notizia dell'estate, vale a dire la nomina di numerosi direttori stranieri per i musei pubblici più importanti d'Italia. Nella lista dei 20 nominati ben 7 arrivano dall'estero: tedeschi, austriaci, britannici e francesi. Italiani gli altri 13, 4 dei quali tornano dopo prestigiose esperienze oltre confine. E per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è benefici fiscali, dibatteteli in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internective, ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di ottobre. La legge contro esodo viene nei fatti cancellata dalla nuova norma per il rientro dei cervelli, col bonus fiscale limitato al 30%. Meglio così, per fare maggiore chiarezza normativa, o un'ingiusta discriminazione verso chi aveva i requisiti per rientrare con la vecchia legge, prorogata per un biennio solo pochi mesi fa e ora soppressa? Per condividere idee, proposte e denunce del nostro forum scriveteci giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Aspettiamo le vostre storie. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.